Storia di Sosta con Davide Canale. Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento quotidiano con Aria di Sosta. Io sono Davide Canale, qui con voi questa mattina, dove parleremo di come vivere la contemporaneità con l'esperto e specialista del giorno, il professore filosofo Alberto De Lorenzi. Ma prima di cominciare ci ascoltiamo un bel brano de Los Izquierdos de Bruxelles. Questi erano Los Izquierdos de Bruxelles con la loro hit di qualche anno fa, Rosamunda. Eccoci di nuovo in studio con voi sulle frequenze di Radio Picnic. Ricordo Davide Canale per il programma Aria di Sosta. Siamo qui in attesa del nostro ospite, purtroppo, che è in leggero ritardo. Speriamo nulla di grave e che tutto si risolva in un breve lasso di tempo. Intanto comincerei a introdurre la sua figura, una figura comunque importante nel panorama filosofico italiano. Alberto De Lorenzi, classe 1971, è filosofo e professore ordinario della cattedra di filosofia moderna presso l'Università di Padova. Come filosofo ha già pubblicato due volumi, il primo del 2004 che si intitola L'iperspazio del guscio contemporaneo. E il secondo è un saggio sulla figura e l'opera di Gioele Maria Micheletti, filosofo minore della corrente analitica italiana. Nel 2010 Alberto De Lorenzi viene insignito del Gran Premio Ufficiale della Filosofia Italica, consegnatogli dall'Associazione Filosofi Torinesi. E nel 2012 viene incaricato a rappresentare l'Italia nel Consiglio Internazionale dei Filosofi Analitici. Alberto De Lorenzi è dunque una figura di spicco nel panorama internazionale e sicuramente un esperto e uno specialista in quello che è vivere la contemporaneità. Per questo noi l'abbiamo invitato qui oggi nei nostri studi per una breve intervista sul tema. Ma in attesa del suo arrivo, ancora un breve brano musicale. Oh. and My Team, Can You Hear Me Now, canzone del 2017, appena uscita fresca fresca quest'anno per le nostre orecchie. Ecco, purtroppo del professore non c'è ancora traccia, non riusciamo a metterci in contatto con lui. Speriamo che non sia successo niente di grave, questo è l'unico augurio che ci possiamo, a cui possiamo pensare. Insomma, purtroppo è una situazione particolare questa, oggi a Area di Sosta, poiché il nostro presunto intervistato non è ancora giunto. Io non posso fare altro che intanto chiedervi scusa a tutti voi, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, sperando che il professore possa giungere in tempo per rispondere ad almeno qualcuna delle domande che avevamo preparato oggi per lui, per parlare di questo complesso tema che è la contemporaneità, il mondo in cui viviamo, e ricevere insomma qualche dritta, qualche suggerimento su come viverlo, vivere tutte le sfaccettature di questa complessa società contemporanea in cui ci troviamo. Veramente mi spiace per questa situazione in cui anch'io sono coinvolto come voi, e penso che una possibile soluzione al momento sia continuare ad ascoltare, a riempire le nostre orecchie di bella musica, per cui proporrei ancora un altro brano nella speranza che la situazione si risolva. Buon ascolto. Questi erano Jomo Jomo con Shaba. Jomo Jomo, band kenyota attiva nella prima metà degli anni 70, con un sound direi tuttora attuale. Nel frattempo mi sono permesso di andare a spulciare un po' nell'archivio audio della nostra radio, che è veramente ricco di spunti, e ho ritrovato questa vecchia registrazione a cui sono molto affezionato e che avrei piacere a proporvi qua in questa puntata alternativa di Area di Sosta. Di nuovo quindi un buon ascolto a voi, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori. Ciò che avete appena sentito è una testimonianza audio raccolta sul campo nel 1958 a Borgo Polentino in Tuscia dall'etnomusicologo Alfio Lazzari. Questo pezzo, come avete potuto sentire, è ricco di pathos e pregno ancora di quell'autenticità che si poteva ritrovare nell'Italia della prima metà del Novecento, in questi paesini discosti. E c'è chi mi scrive da casa chiedendomi cosa aspettarsi oggi da questa puntata di Area di Sosta. In realtà non ho una risposta, non ho veramente la più pallida idea di dove andremo a parare, ma ho deciso comunque di prendere la situazione in mano e cercare di potervi offrire qualcosa di sensato, poiché io, come voi, in questo momento ci troviamo costretti in un'attesa potenzialmente infinita, poiché purtroppo dal professor De Lorenzi ancora non c'è giunta notizia e noi non riusciamo a raggiungerlo. Vorrei inoltre evitare di dovermi scusare e prendere inutilmente tempo, creando magari anche imbarazzi per me e per voi ascoltatori e per tutta la radio, poiché in questo momento conviene sicuramente vivere questo tempo, che è un tempo che, se prima aveva un significato nella strutturazione del programma giornaliero, ora sicuramente l'ha perso, poiché ci ritroviamo senza l'intervistato. Trovo assolutamente sbagliato rimanere intrappolati in questa situazione e credo che sia giusto prendere la coscienza del proprio potenziale, del io qui ed ora, una potenzialità che è lì sempre a portata di mano per ognuno di noi. Anche il professore sicuramente in questo momento non starà facendo nulla, non starà perdendo tempo, ma starà vivendo nel bene o nel male degli attimi che fanno parte della sua vita in questo preciso istante. Ma torniamo ora al brano precedente. Si trattava di un brano cosiddetto tradizionale, ovviamente, un brano che è sicuramente è stato frutto a suo tempo di svariati scambi culturali e arricchito anche da questi scambi e poi cristallizzatosi in un territorio che una volta raggiunta una stabilità e un certo equilibrio socio-economico ne ha permesso la maturazione per diversi secoli. Il prossimo brano è invece quasi un'antitesi della registrazione del 1958, poiché si tratta di un pezzo di improvvisazione per Vuvuzela, un pezzo che si esprime nello stesso istante in cui si compone e dove i tre esecutori, Nagel, Blatter e Frey, che vi inseriscono sicuramente tutto il loro gran bagaglio di conoscenze culturali che i loro studi e le loro conoscenze e le loro esperienze dirette hanno permesso di costruire. E perché no, fra queste conoscenze potrebbe anche esserci quella registrazione del 1958 che abbiamo finito di ascoltare da poco. Ma ora concentriamoci su questo pezzo di improvvisazione per Vuvuzela. E ci sono buone nuove per quanto riguarda il professor Alberto De Lorenzi, che ci ha appena spedito una mail dicendo che ha perso purtroppo un'importante coincidenza per poter arrivare per tempo e non ha potuto avvisarci poiché è stato vittima di un furto di telefonino. Una volta arrivato a casa ci ha inviato questa mail. Nella mail egli ha voluto riassumere il suo pensiero riguardo il vivere la contemporaneità per dare a voi, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, almeno un minimo di quanto avremmo discusso oggi qui a Area di Sosta. Leggiamo dunque qui di seguito ciò che ci scrive il professor De Lorenzi. Il testo è molto lungo e dettagliato, quindi cercherò di fare un riassunto, poiché il tempo rimasto a nostra disposizione non è lunghissimo. Egli dice che in questo mondo attuale in cui ci muoviamo, lo spazio è praticamente raddoppiato, poiché oggi esiste uno spazio reale e uno spazio digitale ancora più vasto, almeno per quanto riguarda la vista, l'udito e l'intelletto. E suggerisce di cercare di sfruttare questa orizzontalità molto vasta per trovare gli spunti su cui indirizzare un percorso di verticalità, di approfondimento per quanto riguarda i nostri interessi, un approfondimento che è ancora possibile grazie alle biblioteche, agli archivi, i vari archivi sparsi per il globo, che sono ormai anche digitalizzati. Il tempo rispetto a uno spazio così vasto risulta però ridotto, e quindi è importante trovare un focus e concentrarsi, una volta trovata la propria via, su quello che ci interessa. Nella sua email parla anche di centralizzazione e del pericolo esistente causato da questa pratica. Il rischio, scrive il professor De Lorenzi, è che la provincia diventi veramente un luogo di inattività, un luogo dove la vita scompare, creando nelle persone che la vivono una chiusura mentale dove non esiste più scambio di nessun tipo. Suggerisce dunque alle giovani generazioni e anche a tutte le generazioni comunque, di cercare di portare attività, vita, relazioni e scambio in tutti i posti del mondo, così da rendere viva qualsiasi posto. E, da ultimo segnala anche il pericolo delle informazioni immediate e indirette e suggerisce di provare il maggior numero di esperienze possibile, così da arricchirsi direttamente attraverso i propri sensi e avere un contatto diretto con la realtà. Da ultimo, nella sua mail chiede anche una simpatica dedica che noi certamente gli accorderemo. Ci chiede una delle prime composizioni giovanili di Franz Lisiecki e noi abbiamo trovato questa composizione per tubi in plastica dove l'esecutore è chiamato a rotearli nelle diverse altezze di frequenza. Anno 1972, questa composizione giovanile di Franz Lisiecki, questo esperimento con i tubi di plastica. E siamo giunti al termine anche oggi di Area di Sosta, è il momento dei ringraziamenti e dei saluti. Vorrei ringraziare il professore che è stato gentile nel mandarci comunque questo riassunto che io mi scuso, ho letto un po' velocemente e con dei termini assolutamente inadeguati al linguaggio del professore, ma la situazione non permetteva di fare altrimenti. E ringrazierei anche il pubblico che è stato all'ascolto e non vorrei scusarmi per quello che è successo, poiché la vita è variegata e succedono diverse cose anche quando meno te lo aspetti. E con questo vi saluto e ci sentiamo la prossima volta, se ci sarà una prossima volta. Area di sosta con Davide Canale.